Suoni, parole, attimi d'amore, senza vergogna, solo noi, e tutto diventa magia. I tuoi occhi nei miei, e il sole sveglia, si sveglia dentro di me. Aria, sole, bellezza che riscaldano il cuore. Tu sei vita e amore.